giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Trieste. Il ragazzo guidava una motocicletta che in un tratto di strada del Friuli si è scontrata frontalmente con una utilitaria. Lievemente ferito anche il conducente di un'altra moto, illese le due persone a bordo della macchina. La Corte dei Conti segnala gravi carenze di personale in Friuli Venezia Giulia, ostacolo all'attuazione della riforma sanitaria del PNRR. Critica la difficoltà di reperire dati e sollecita una programmazione basata su numeri certi e modelli organizzativi chiari. Evidenzia infine la mancata istituzione di strutture previste e il ritardo negli accordi regionali. Un progetto pilota tra Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna cerca di rendere più efficienti i percorsi ospedalieri, ridurre gli sprechi e mettere il paziente al centro. Nato dalla collaborazione tra l'azienda Digitale Modello di San Vito al Tagliamento e un istituto sanitario del Bolognese, prevede formazione, supporto operativo e monitoraggio per migliorare flussi e organizzazione. A Muggia sono comparse una decina di scritte offensive contro il sindaco Paolo Polidori anche nei pressi della sua abitazione. Gli attacchi sembrano legati alla presunta vendita del castello di Muggia a privati americani, operazione su cui il sindaco nega ogni coinvolgimento. Indagano polizia locale e Digos. Agrivoltaico avanzato, ossia come tentare di mettere d'accordo la produzione agricola con i campi fotovoltaici. A Palazzolo dello Stella stamattina l'inaugurazione di un impianto di questo tipo. Il progetto della Valle dell'Idrogeno, che coinvolge Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, potrebbe entrare in produzione l'anno prossimo. Il progetto è sostenuto dall'UE con 25 milioni. Sono già attivi 17 progetti pilota e si punta a produrre 5.000 tonnellate di idrogeno l'anno. Obiettivo: condividere almeno il 20% tra i tre paesi, favorendo decarbonizzazione e competitività europea. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Si chiamava Matteo Millo, il giovane di 20 anni che a Trieste ha perso la vita poco prima della mezzanotte in strada del Friuli all'altezza di Contovello mentre era alla guida di una moto. Per cause in corso di accertamento si è scontrato in modo frontale con una vettura che procedeva in senso opposto. L'auto ha causato una caduta sull'asfalto del giovane dopo un volo di diversi metri e gravi traumi in più parti del corpo. All'arrivo dei sanitari era già in arresto cardiaco e, nonostante gli sforzi, non è stato possibile rianimarlo. Con lui c'era anche un altro motociclista che però ha riportato ferite non gravi, mentre le persone che viaggiavano sull'auto sono rimaste illese. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, anche la polizia municipale. Il sistema sanitario regionale affronta gravi criticità legate alla carenza di personale e alla difficoltà di attuare le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Corte dei Conti, con un rapporto, evidenzia diverse problematiche. La mancanza di dati aggiornati e i vincoli contrattuali ostacolano, ad esempio, la piena operatività delle case di comunità. Case e ospedali della comunità, centrali operative territoriali, unità di continuità assistenziali. Senza personale sufficiente, le strutture previste dal PNRR e dalla riforma dell'assistenza territoriale non potranno essere operative. Lo scrive la sezione regionale della Corte dei Conti analizzando la sanità in Friuli Venezia Giulia. Parla di necessità di un'attenta programmazione delle risorse e di improcrastinabili scelte di definizione dei modelli organizzativi, l'organo di controllo. Muovendo innanzitutto una critica, se così difficile per le strutture regionali e per i magistrati reperire e raccogliere i dati, serve un rafforzamento delle strutture preposte, perché è sui numeri che si fa una razionale programmazione del sistema sanitario. Stimato innanzitutto il fabbisogno di personale per avere piena attuazione della riforma. Mancano all'appello 233 infermieri, 107 OS, 118 professionisti nella riabilitazione, 189 medici di continuità assistenziale e 187 medici di base. Per questi ultimi, in alcune zone, come in Carnia e nell'Ivenza, ci sono carenze rispettivamente del 38% e del 35%, del 39% nell'Alto Isontino. Non solo, i medici di famiglia hanno già in media 1.521 pazienti ciascuno, quando era rapporto ottimale sarebbe di un medico ogni 1.300 assistiti. Non possono farsi carico di più oneri. e quelli di non recente impiego possono scegliere di non svolgere servizio nell'ambito delle nuove strutture previste dal PNRR. Una criticità da risolvere con la contrattazione. Non può ritenersi ammissibile, scrive la Corte dei Conti, che un'eccessiva procrastinazione delle trattative possa incidere negativamente sull'erogazione del servizio. La sottoscrizione degli accordi integrativi regionali sarebbe dovuta intervenire entro l'ottobre 2023. I giudici richiamano infine l'attenzione sulla necessità di uniformare le nomenclature con il Servizio Sanitario Nazionale, da noi per esempio le RSA sono dedicate alla riabilitazione, auspica un rafforzamento dei sistemi di controllo da parte delle aziende e richiama infine l'attenzione su alcune forme organizzative come l'aggregazione funzionale territoriale e l'unità complessa delle cure primarie che al 31/12/2024 non risultavano ancora istituite sul territorio regionale. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La sinergia tra ente pubblico e terzo settore nell'assistenza di prossimità. Si è fatto il punto su questo tema in un incontro svoltosi stamattina a Trieste. L'assistenza alle persone anziane fragili, il potenziamento di interventi a supporto di anziani e di caregiver e l'informazione alla cittadinanza, gli approfondimenti dei diversi interventi. Una sperimentazione che vuole diventare prassi, la sinergia tra ente pubblico e terzo settore per un'assistenza di prossimità agli anziani fragili. Le case della comunità rappresentano il luogo d'incontro del progetto Si fa rete, finanziato dalla Regione con la collaborazione di associazioni del terzo settore come ACLI, Associazione De Banfield, Associazione Aulos e Caritas. Dalla sperimentazione, durata 2 anni, è emerso che il 47% delle persone anziane fragili prese in carico aveva bisogno, ad esempio, di assistenza per gli spostamenti. Valentina Benedetti è la vicepresidente ACLI Friuli Venezia Giulia. Dei metodi e dei modi sperimentati, testati e provati e quindi fattibili ovviamente nelle diversità dei vari territori, però diciamo il metodo sperimentato è valido non solo per gli anziani ma per qualsiasi età diciamo del cittadino e ci auspichiamo effettivamente che sia il futuro perché solo una rete di comunità riuscirà ad avere una salute di comunità coesa e integrata. Oltre alla presa in carico delle persone sono stati previsti anche percorsi di formazione per i caregiver per imparare a prendersi cura di un anziano con fragilità dagli aspetti burocratici a quelli relazionali. L'obiettivo è rendere definitivo il progetto. Federica Morgera è il direttore servizio politiche per il terzo settore Regione Friuli Venezia Giulia. Massimizzare i servizi offerti attraverso l'apporto di quelle organizzazioni, enti del terzo settore che conoscono e rappresentano i bisogni della comunità. Quindi la casa di comunità non sarà più solo un luogo di cura, ma un luogo di benessere, di welfare regionale attraverso il supporto dei cittadini singoli o organizzati attraverso gli enti del terzo settore. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Prende vita fra Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna un progetto pilota per ottimizzare i processi ospedalieri. Si tratta del frutto di una collaborazione tra la LEF, l'azienda digitale modello di San Vito al Tagliamento, e l'Istituto Sanitario di Montecatone, in provincia di Bologna. Un progetto pilota tra Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per ottimizzare i processi assistenziali. Grazie alla sinergia tra l'EF, l'azienda digitale modello di San Vito al Tagliamento, e l'Istituto di Riabilitazione di Montecatone, il metodo Lean, approccio volto a snellire i processi organizzativi, viene applicato in campo sanitario, con l'obiettivo di rendere i percorsi ospedalieri più agili ed efficienti. Marco Olivotto è direttore generale di LEF. Applicare il metodo Lean in sanità vuol dire sostanzialmente riuscire a replicare il concetto dell'organizzazione snella, quindi di un'organizzazione efficace, veloce, che riduce gli sprechi e che sa rispondere meglio al cliente, in questo caso al paziente, e metterlo veramente al centro, grazie a modelli, un'organizzazione diversa, anche all'utilizzo di strumenti digitali, ma che sono un compendio a quella che è l'organizzazione. Quindi organizzazione da un lato e strumenti per efficientare dall'altro ci permettono di essere operativamente molto più efficienti ed efficaci. Per il commissario straordinario del centro, Mario Tubertini, questa trasformazione rappresenta un'opportunità di crescita organizzativa per il futuro. Il percorso prevede la formazione di una 15 di figure professionali dell'istituto con un supporto operativo sul campo. Un monitoraggio continuo poi permetterà di valutare i risultati e apportare eventuali aggiustamenti al fine di ridurre gli sprechi e migliorare i flussi di lavoro e l'uso delle risorse. San Vito al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una decina di scritte oltraggiose ai danni del sindaco di Muggia, Paolo Polidori, sono apparse questa mattina su diversi edifici cittadini, tra i quali la stazione dei bus, un mezzo della Trieste Trasporti e muri di abitazioni private in vari punti della cittadina. La polizia locale sta visionando i filmati delle telecamere, mentre accertamenti sono in corso anche da parte della Digos, considerando che alcune scritte sono state effettuate vicino all'abitazione del sindaco. Alcune scritte attaccano il primo cittadino facendo riferimento a una probabile acquisizione del castello di Muggia da parte di acquirenti americani. Sul movente della vendita del castello, commenta Polidori, qualsiasi persona minimamente intelligente capisce che in una compravendita fra privati un sindaco non c'entra assolutamente nulla. Avevo studiato la possibilità di acquisirlo da parte del comune, ma l'impegno finanziario e le alte spese di manutenzione rendevano l'operazione insostenibile. Sappiamo che il rancore politico, commenta ancora Polidori, serpeggia nella testa di tanti e questa, per le modalità e la vicinanza a casa mia di alcune delle tante scritte, sa proprio di intimidazione. La rinascita del Porto Vecchio è una sfida progettuale che deve mobilitare le migliori competenze in materia di rigenerazione urbana e portuale, ma il destino del Porto Vecchio, pilotato dal Comune di Trieste, è rimasto privo finora di un adeguato contesto di confronto pubblico, tanto a livello urbanistico e scientifico quanto a livello di partecipazione civica. Questo è quanto si legge in un comunicato dei firmatari del Manifesto per un Porto Chiaro, che annunciano un incontro sul tema in programma alle 18 al Circolo della Stampa di Trieste. Parteciperà l'avvocato Alberto Pasino, esperto di diritto della navigazione. Tema: il regime di Punto Franco, la sua concreta applicabilità nella prospettiva di renderlo un elemento strategico per l'attrattività e il rilancio del Porto Vecchio. Il comune di Lignano Sabbiadoro ha prorogato al 20 giugno la scadenza dei bandi per l'assegnazione delle concessioni balneari, inizialmente prevista per il 28 maggio. La decisione, presa dal settore edilizia e territorio, risponde a richieste di chiarimenti e di più tempo da parte degli operatori economici. La proroga non modifica i termini finali del procedimento già stabiliti per adempiere ad una sentenza del Consiglio di Stato. L'obiettivo resta garantire trasparenza e parità di accesso. Gli operatori potranno ora ottenere chiarimenti precedentemente non forniti e sostituire eventuali offerte già inviate. L'amministrazione ribadisce l'interesse pubblico alla rapida conclusione della procedura. Il 22 maggio scorso Butrio è stata colpita da un violento evento meteo con 130 mm di pioggia in poche ore, ma ha evitato allagamenti grazie al bacino di laminazione del Rio Rivolo. L'impianto ci ha salvato ancora una volta, ma bisogna non abbassare la guardia, ha commentato il vice sindaco Tiziano Venturini. È importante continuare con le manutenzioni eseguite dal consorzio di bonifica Pianura Friulana. L'impianto ha raggiunto 3 metri di livello e contenuto efficacemente le acque. Fondamentali si sono rivelate le manutenzioni recenti effettuate dal consorzio con fondi regionali. Il vice sindaco Venturini ha perciò invitato a non abbassare la guardia, dato che eventi così intensi stanno diventando sempre più frequenti. C'è preoccupazione per la capienza futura del bacino e per la particolare conformazione del territorio. Inaugurato a Palazzolo dello Stella un impianto agrivoltaico avanzato, pannelli di produzione di energia elettrica sono installati su strutture sopraelevate senza impattare sulle colture sottostanti. Coniugare rinnovabili e agricoltura è questo l'obiettivo degli impianti agrivoltaici, quelli che permettono anche la coltivazione a Palazzolo dello Stella. Un progetto dell'Agenzia Regionale per l'Energia si pone proprio questo fine, anche alla luce delle resistenze delle comunità locali ai grandi campi fotovoltaici a terra che tolgono spazio alle colture. Sul terreno di un privato sono stati installati 2 impianti, uno su un campo di soia, l'altro, dal punto di vista agronomico più innovativo, su un vigneto, con un vantaggio duplice: non solo produzione di energia elettrica per integrare il reddito dell'agricoltore, ma anche un possibile miglioramento della condizione della vite. Ci si aspetta che la copertura riduca l'umidità e quindi le malattie fungine a esse associate. Il pannello semitrasparente inoltre dovrebbe limitare l'eccesso di irraggiamento. Il sistema è stato progettato su misura per il microclima locale e fornirà, attraverso numerosi sensori, una mole di dati molto utile a ricercatori agronomi. Anche per questo, con collabora all'iniziativa all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale. La speranza dei promotori è di incoraggiare investimenti di questo tipo anche su altri terreni. L'assessore all'agricoltura regionale Stefano Zanier ha sottolineato il valore del progetto contrapponendolo ad agrivoltaici che sono tali solo nel nome. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. 12.45, passiamo al meteo. Il cielo è da sereno poco nuvoloso su pianure e costa, da nuvoloso a coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste e Pordenone 21 gradi, a Gorizia 25, a Udine 24 gradi, in area montana Forni di Sopra 18, Tolmezzo 19 gradi, Tarvisio 18 gradi e 5 decimi, Piancavallo 14 gradi e mezzo, Sappada 15 gradi e mezzo, in quota sul Monte Zoncolan 11 gradi e mezzo, su Monte Lussari 10 gradi e mezzo, sulla costa grado 22, a Lignano 23 gradi. Le previsioni: oggi pomeriggio nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi sulla zona montana e che probabilmente poi interesseranno tutte le zone. Sulla costa in giornata vento da sud-ovest moderato. Due premi Nobel per la fisica, i francesi Anne Lhuillier e Alain Aspect, interverranno a Trieste per parlare dell'osservazione della materia. Sono solo i primi due di una squadra di 9 premi Nobel, fra loro anche Giorgio Parisi, che da oggi a venerdì saranno in città per un evento organizzato dal Centro di Fisica Teorica Abdus Salam, dall'Università e dalla SISSA per celebrare i 100 anni della fisica quantistica. Anne Lhuillier e Alain Aspect oggi interverranno all'incontro Storie di Luce, due Nobel si raccontano nell'aula magna dell'edificio A dell'università alle 18, sotto la lente il percorso umano e professionale che ha portato i due scienziati ad ottenere l'onorificenza più alta nel proprio campo. Ad Angelo Bassi, docente di fisica all'Università Giuliana, abbiamo chiesto una presentazione dei due studiosi. Anne Lhuillier nel 2023 ha vinto il premio Nobel per la fisica per aver aperto le porte allo studio dei fenomeni nell'atto secondo. L'atto secondo è un tempo piccolissimo, quasi inimmaginabile quanto breve dura, però in quei tempi molto piccoli avvengono a livello microscopico, dentro la materia, processi fisici estremamente importanti. Prima non si riusciva a vederli perché erano troppo veloci. Anne Lhuillier ha inventato dei nuovi laser così veloci che invece riescono a risolvere, a guardare i dettagli di questi fenomeni. E quindi si è aperto un nuovo orizzonte per lo studio del comportamento della materia su scala microscopica. Ci sono stati dei riflessi anche dal punto di vista della vita quotidiana? Beh, al momento ancora no, perché siamo ancora in fase di ricerca di base, quindi di scoprire come è fatta la materia. Però ce ne saranno in futuro. Cosa possiamo dire invece di Alain Aspect? Alain Aspect ha vinto il premio Nobel per la fisica anche lui, su un argomento nello stesso campo della meccanica quantistica, ma per aver dimostrato sperimentalmente qualcosa di straordinario, qualcosa che era stato dibattuto da Einstein e dai grandi fisici del Novecento, cioè se la meccanica quantistica è una teoria completa o meno, se è una teoria locale o meno. Che cosa significa in soldoni? Significa la meccanica quantistica coglie veramente l'essenza di come è fatta la natura oppure no? John Bell, un fisico successivo ad Einstein, aveva capito che il problema posto da Einstein si traduceva ad un problema di località, e cioè quello che io faccio qui ora adesso ha influenza anche a distanza oppure no? Lui ha teorizzato il problema. Alain Aspect è diventato famoso, ha vinto il premio Nobel per aver dimostrato sperimentalmente che l'intuizione di Bell era corretta. Quello che io faccio qui ha azione, ha un effetto istantaneo a distanza, contrariamente a quanto prevedeva Einstein. Possiamo dire che loro due, Bell teoricamente e Aspect sperimentalmente, hanno dimostrato che Einstein aveva torto. Ed ora parliamo del progetto della Valle dell'Idrogeno dell'Adriatico del Nord, che punta a creare un ecosistema dell'idrogeno verde fra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia. Finanziato dall'Unione Europea, promuove decarbonizzazione, innovazione e cooperazione transfrontaliera. Una visione per un'Europa pulita, intelligente e moderna. E questo è l'obiettivo della Valle dell'Idrogeno del Nord Adriatico, che coinvolge Slovenia, Croazia e la regione Friuli Venezia Giulia, protagonista sin dal 2022 e che punta alla decarbonizzazione e alla competitività europea tramite l'idrogeno verde. L'assessore regionale all'ambiente, Fabio Scoccimarro. Un grande obiettivo, non solo in teoria, ma in pratica, con altri progetti. Poi parliamo del nostro territorio regionale, a Trieste, a Monfalcone, a Porpetto, metteremo veramente in piedi dei progetti importanti per andare verso quella che è il nostro obiettivo, di anticipare di 5 anni il Green Deal europeo. L'ecosistema è sostenuto dal programma Horizon Europe, che ha stanziato 25 milioni di euro. Si prevede la realizzazione di impianti, stazioni di rifornimento e progetti di ricerca. Sono 17 già i progetti pilota e i testbeds avviati dal consorzio, che riunisce 37 partner. Prevista la produzione di 5.000 tonnellate di idrogeno annue, la maggior parte in Slovenia. Davor Rašić, segretario del Ministero dell'Ambiente e dell'Energia della Repubblica di Slovenia. La produzione vera e propria dovrebbe partire il prossimo anno. Ci aspetta anche una sfida importante, ovvero far sì che il 20% dell'idrogeno prodotto venga poi condiviso tra i 3 paesi. 2 anni dalla firma dell'accordo, il progetto è diventato un modello concreto per un'economia dell'idrogeno condivisa. Tra i partner anche Area Science Park, che coordina gli attori della catena dell'idrogeno, migliorando le strategie di innovazione, intercettando anche le mancanze legate alle normative. Con il contributo della regione si realizzerà un laboratorio unico nel suo genere. Alberto Soraci, coordinatore SAF Area Science Park. In un unico ambiente avremo la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno. Questo progetto avrà tutto un sistema di misura per capire esattamente quali sono le performance dei vari singoli impianti. Trieste, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia. Centinaia di esemplari e non solo di grifoni. La riserva naturale del lago di Cornino ospita rapaci ed è il punto di riferimento da anni, merito anche dell'intuizione di rifornire i volatili di cibo lungo le loro migrazioni. Il pasto più ecosostenibile e sicuro per i pennuti, le carcasse di cervi, caprioli e cinghiali ritrovati nei boschi e sulle strade della regione dalla forestale. Una sorta di autogrill per rapaci. La riserva del lago di Cornino negli anni è diventato un pit stop per rapaci in volo, grifoni innanzitutto. Fulvio Genero, direttore scientifico riserva naturale lago di Cornino. Siamo il primo progetto in Italia, secondo in Europa, ed è l'unica colonia di grifoni nidificante su tutto l'arco alpino. Questi grifoni hanno anche una buona autonomia, nel senso che trovano molto cibo sulle montagne soprattutto, ma il punto di alimentazione è fondamentale per periodi in cui il cibo scarseggia. Le coppie sono quasi un centinaio, quindi il progetto ha avuto e ha un grande successo, devo dire. Il numero di grifoni varia da circa 200 d'inverno a 300-400 d'estate, quando possono arrivare sia dalla Croazia, come dicevo, ma anche da altri paesi, un po' da tutta Europa. Ma come vengono nutriti? Siamo gli unici in Italia ad aver avviato un processo, direi, molto partecipativo col Corpo Forestale Regionale, che ci fornisce tutte le carcasse di ungulati che vengono investiti sulle strade delle province di Udine e Pordenone. Ci sono poi anche dei divieti, no alla carne suina per colpa della peste e no soprattutto alla cacciagione. Ci sono anche animali feriti che poi non vengono recuperati e muoiono, oppure le interiora che vengono lasciate sul territorio dei cacciatori. Questo però è un fattore molto pericoloso perché, come dimostrano sempre più chiaramente ricerche in tutto il mondo, il problema del saturnismo, quando si usa le munizioni con il piombo, è un problema che provoca la morte o grossa tossicità nei rapaci. Diciamo che queste schegge di piombo che rimangono nella carcassa sono molto molto pericolose, per cui si sta facendo di tutto per passare alle munizioni atossiche che non contengono il piombo. E a proposito, ci sarà un grosso convegno in ottobre in regione proprio su questa problematica, con esperti che arriveranno da tutta Europa. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ha coinvolto 7 scuole della regione il progetto educativo ITSGO 2025, ispirando gli studenti a superare confini culturali e personali per esplorare la moda come strumento di innovazione, sostenibilità e collaborazione. Oggi l'evento finale dell'iniziativa, con la presentazione delle creazioni selezionate per l'esposizione permanente. L'idea viene prima sfogata su portfolio, fatti da appunti, disegni, pezzi di stoffa, il tutto poi passa per mani abili e creative di giovanissimi talenti delle 7 scuole di moda della regione Friuli Venezia Giulia, e l'idea così diventa abito. 7 creazioni, una per ogni istituto, entrano a far parte della collezione permanente di It's Academy, il primo museo della moda contemporanea in Italia, a Trieste, che nell'anno di Gorizia, Nova Gorizia, capitale europea della cultura, ha lavorato con questi 140 studenti in un progetto sostenuto dalla regione attorno al tema del confine da scavalcare, go borderless, andare oltre ma lavorando insieme. Barbara Franchin, direttrice di It's Academy. Beh, ha significato andare a pensare dentro se stessi, a trovare i propri confini e mettersi in discussione, cercare di superarli e cercare di relazionarsi al mondo senza confini. It's Academy è sempre più un luogo dove anche gli studenti della nostra regione di moda si possono confrontare, possono sperimentare e trovare un luogo dove effettivamente mettere in campo la loro creatività. Siamo proprio qua per questo, siamo qua per relazionarci, per dare spazio e includere tutte le persone, attività, gruppi creativi. Abbiamo degli spazi, abbiamo conoscenza e voglia di condividerla. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi nell'ambito della rassegna Aspettando un mare di archeologia, anteprima del Festival Archeostorico che si svolge in ottobre. Marco Brando presenterà il suo libro Medi et Evo, l'età di mezzo nei media italiani, in approfondimento il modo in cui l'età medievale viene rappresentata nei media con spunti sul rapporto tra divulgazione storica e informazione giornalistica. L'evento sarà occasione per riflettere sul ruolo attuale e futuro di storici e giornalisti. Appuntamento a Trieste alla libreria Ubic di Galleria Tergesteo alle 18. Racconta l'anima ribelle e indipendentista del popolo friulano, capace di opporsi a ingiustizie e imposizioni, il libro Friulani eretici e ribelli di Walter Tomada, che l'autore presenta a Remanzacco nel municipio alle 20:30. Tra le pagine la vena eretica che corre nei friulani descritti come onesti e lavoratori. Fabio Verardo, autore del libro Crimini contro le donne, il collaborazionismo cosacco-causico in Friuli, presenterà il suo libro a Udine alla libreria Gaspari in via Vittorio Veneto alle 18. Il libro esamina lo stupro come strumento di guerra nella repressione antipartigiana per ricostruirne cause, modalità, caratteristiche e conseguenze di breve e lungo periodo. Sono le 12:56 minuti e 30 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Mauro Cumin e da Samuel Montalto. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione. Da Maria Spezia e da Antonio Cajazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.